A portata di click. Buongiorno a tutti i fan di ClickArt, cioè miei fan. Oggi voglio condividere con voi un'importante scoperta. Per esempio, vi dice nulla la frase "ai lati d'Italia"? Niente. E tu, Elia, che fai sempre il saputello, ti dice nulla? Certo, è una frase palindroma. Sì, ora. Adesso ti metti a inventare parole solo perché sei in difficoltà. Questa è una frase che... Si può leggere anche al contrario. Come fai a saperlo? Mi hai rubato gli appunti. Gli hai dato un nome che io non potrei mai imparare. Ma questa non la sai. I topi non Non hanno... avevano nipoti. Neanche questa. E la mafia, sai, fa male. Ecco delle docce. E la va a valle. O magre bidelle di Bergamo. No, questa no. O magre bidelle di... non è possibile. E là solo a Petra, Peppe parte, Paolo sale. Oh, Petra, antico insediamento della Giordania, capitale dei Nabatei e meraviglia del mondo moderno. Ma dov'è il pulsante? Quale? Quello per spegnerti, o almeno per farti capire che oggi parleremo di Pergamo e non di Peppe, Petra, Paolo, Giuseppa, Concetta e chi più ne ha più ne metta. Fatta che arrivo. Ti do ragione, oggi parleremo di Pergamo, città dell'Asia Minore posta poco distante dalle coste del Mare Egeo. Vediamo se hai studiato. Cosa sai dirmi sulla sua storia? Allora, fu scelta da uno dei generali di Alessandro Magno, Lisimaco, per custodire il bottino di guerra e ne venne affidato il comando a Filetero. I successori di Filetero trasformarono Pergamo in un regno indipendente, che divenne uno dei principali centri economici e culturali di età ellenistica. Mica male. Vediamo cosa sai dell'urbanistica. L'assetto urbanistico di Pergamo è caratterizzato dal superamento della divisione fra Acropoli, Acropoli, Città Bassa e il Santuario. Le mura furono costruite assecondando il profilo della collina e nella Città Bassa vennero costruite un agorà, piazze minori, edifici pubblici e religiosi. Vengono spesso usati porticati a uno o due piani di ordini classici a uso decorativo. Beh, quello lì, sì, sempre quello. Oh, senti, mi sono fermato qua. Vabbè, meglio che niente. Continuo io. Nell'Acropoli sorsero i palazzi reali, posti sul lato est ed in posizione più elevata. Ricopre particolare importanza il sistema di approvvigionamento idrico. Per tutti quelli che non hanno lo Zanichelli davanti agli occhi, approvvigionamento idrico sta a indicare il modo in cui ci si procura l'acqua, in questo caso con opere di ingegneria perfezionate in epoca romana. La prima cosa che saltava alla vista... Una rana o un grillo? provenendo dalla pianura. Allora era un grillo, perché le rane vivono più nelle paludi. Era l'agorà porticata e uno dei monumenti di cui parleremo oggi. Perché Ossia, l'altare di Zeus. quel tono? Perché l'altare di Zeus. Vabbè, quindi l'altare di... No, no, no. L'altare di Zeus. Ok, quello... No, quello. Ok, aspetta, vai. Non L'altare di Zeus. è più visibile oggi nella città di Pergamo, ma è conservato negli Staatlichen Museen a Berlino. Sorgeva su un'ampia scalinata. A est. Cosa? Perché est? L'ampia scalinata. Perché Ok, ma perché? sorgeva. E dai, non solo non hai studiato, ma interrompi anche con queste baggianate. Comunque, era incorniciato da un colonnato ionico a U e poggiava su un crepidoma a pianta quadrata. Ciò che colpisce di più, Ai ai. magari colpisce più forte, dicevamo, la parte più importante, il grande fregio detto della gigantonomachia. E no, questa è una titanomachia. Esatto, infatti sulla parete orientale è raffigurata Atena, che lotta contro Alcioneo, il titano dal corpo di rettile, al quale giunge inutilmente in soccorso la madre Gea. Questo, oltre ad essere un richiamo alle vittorie dei Pergameni contro i Galati, E le loro figlie galatine, molto dolci direi, delle ragazze davvero squisite. è anche un modo per fare idealmente di Pergamo l'erede di Atene. Il fregio è caratterizzato da un accentuato patetismo, tipico dell'arte ellenistica, e si offre nel complesso come esempio di rielaborazione dell'arte classica. Ma no, aspetta, cos'è una crema da spalmare molto usata nell'ellenismo? Cosa? Che dici? Non so, hai detto patè qualcosa. Ok, allora. Va bene tutto, ridiamo, scherziamo, ma che non mi sai che cosa sia il patetismo. E per giunta lo scambi con una crema d'antipasto. Ok, va bene, scusa. Ma cos'è quindi? È la grande emotività che traspare da tutte le opere di età ellenistica. Vabbè, comunque, l'altare non è l'unica cosa che parla di Galati, no? Effettivamente, abbiamo anche il donario di Attalo I, scolpito da Epigono di Pergamo. L'originale era in bronzo, ma noi sono pervenute solo le copie... Oh, a te, a me, ne è pervenuto proprio nulla! Nonostante il tuo commento sia fuori luogo, le copie sono conservate appunto a Roma, nel Museo Capitolino. Oh, che fuori luogo! Bello! Era tutto calcolato! Defatti, sono copie d'età romana imperiale, oh! Ok, adesso puoi smetterla. Ok. Comunque, il donario è caratterizzato da più gruppi scultorei posti su un basamento circolare, sul quale era scolpita l'iscrizione commemorativa. E rappresentava dei guerrieri galati, ormai prossimi alla sconfitta. A questo proposito è esemplificativa la figura del principe Galata, che, dopo aver ucciso la moglie, si suicida trafiggendosi con una spada nella clavicola per non cadere prigioniero. Anche il cosiddetto Galata Morente... No, no, aspetta! Questo lo dico io. Dici sempre tutto tu! Il Galata Morente, un trombettista, è rappresentato secondo la classica nudità degli eroi. È accasciato su un fianco e perde sangue da una ferita al petto. Si possono notare elementi tipici della cultura galata, ossia di quei celti che si erano spostati verso il Mar Ionio. Come ad esempio il torchè che porta al collo, oppure i capelli che venivano cosparsi con un misto di fango e gesso, che serviva a rendere ancora più spaventosi i giganteschi corpi dei guerrieri galati agli occhi dei bassi guerrieri mediterranei. Ma qual è il messaggio? Era per far scena o lo vuoi sapere davvero? Sei sempre così scettico. Ok, beh, secondo me il fatto che quest'opera rappresenti i vinti non è soltanto per esaltare i vincitori, ma anche per mostrare la dignità ed il valore dei galati, che essendo barbari, non sarebbero mai stati considerati in età classica capaci di possedere certe virtù. Comunque io aggiungerei anche che, quindi, in età ellenistica, si sono superati i pregiudizi che c'erano prima. Come hanno fatto a superarli, secondo te? Beh, grazie al grande Ale. Chi? Alessandro Magno. Grazie a lui i greco-macedoni sono entrati in contatto con diverse civiltà e hanno imparato ad apprezzarle. E da questo dovremmo trarre insegnamento anche oggi. Il mondo è bello perché è vario. Oggi ci sentiamo filosofi. Beh, tutto sommato tra pensieri profondi e frasi palindrome? Che fai, mi correggi? Beh, mi sembravi un po' in difficoltà. Direi che possiamo chiudere qui per oggi. Ma cosa stai scrivendo? No, dimmi un po' chi è in difficoltà. Senti questa. A valle, tra masse ebre, la nera... L'accesa d'ira Etna ti muoveva. L'Etna gigante, l'ave vomitante. Arida, secca l'arena, l'erbe essa martellava. E allora? Ah no. Oddio, aspetta un attimo. Ma è palindroma! L'arte a portata di click.